Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi trovo davanti un signore sulla sessantina che in lingua inglese e molto educatamente si lamenta del volume della musica. Gli rispondo anch'io in inglese. Gli dico che non era mia intenzione disturbare, che non mi ero reso conto. La moglie mi urla contro da distante, tacciandomi ironicamente di non essere rumeno. Il marito la zittisce con un solo gesto e la rimanda in casa. Poi, sempre con educazione, ribadisce che il volume della musica era un po' alto. Buongiorno, mi chiamo Fabrizio Ferrari, ho 46 anni, vivo a Valencia, Venezuela, 4 figli e lavoro come direttore amministrativo in un cantiere di opere ferroviarie di una grande impresa italiana. Sono le 16:07 minuti di un mercoledì qualunque, 8 febbraio 2012. Io ho scoperto di recente che l'influenza sta facendo bene a questo programma. La prima ondata di influenza è arrivata a gennaio, di cui Nicoletta Carbone ha ampiamente parlato in Essere e Benessere, un programma di Nicoletta Carbone. Mi viene da sempre dire tutto insieme. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. No, a voi non viene? Vabbè, a me sì. Dicevo, questa ondata influenzale in realtà sta beneficiando il programma, perché questo è un programma che voi ascoltate, essendo le 4 del pomeriggio, in automobile se siete in giro, oppure se avete uno studio, no? Se siete che ne so, chi siete voi, ditemelo magari chi siete e quando, in che occasione mi ascoltate. 349-238-6666. Ma c'è tutta una fetta di persone che di solito a quest'ora lavora e che invece magari è a letto, con la febbre, con l'influenza in questo momento. A me spiace moltissimo per loro, ma questa è un'occasione per ascoltare programmi che altrimenti non ascoltereste. Allora, se questo programma lo ascoltate e in qualche modo vi piace, appena vi riprendete e appena tornate al lavoro, lo potete ascoltare in podcast. Andate sul sito di Radio 24, sulla pagina dei podcast, andate tutto in fondo, voi siete qui, o altrimenti andate su iTunes e vi abbonate gratuitamente, 5 puntate alla volta. 349-238-6666, comunque buona guarigione a chiunque sia malato. Oggi si parla però di un altro argomento e devo ringraziare Fabrizio. Anzi no, prima, per andare con ordine, giusto, per andare con ordine. Grandissimo successo dell'operazione Radio 24 la Bit. Grandissimo successo. Adesso non so quanti racconti siano arrivati, però di solito le radio, quelle che pompano, tipo Rete 105, dice sempre grandissimo successo dell'operazione, no? DJ pure, grandi, abbiamo esaurito il pala... dove l'hanno fatta la festa? Pal Forum. Esatto, è la stessa cosa, ragazzi, ci sarà la Beat piena di gente, anche grazie ai 10 omaggi che noi abbiamo già dati, i 10 biglietti omaggio, sono già esauriti. Allora è veramente un successo, vedi? Grazie anche ai 10 biglietti che abbiamo regalato, ai primi 10 racconti che sono arrivati, racconti di viaggio per partecipare alla Beat sabato e domenica prossimi alla Fiera di Ropero, mentre noi venerdì saremo in diretta, ma purtroppo è aperta solo agli operatori, con un racconto che appunto è arrivato, adesso non ricordo più chi è, comunque il primo o il migliore, insomma l'abbiamo selezionato, è un racconto di viaggio. Però potete ancora mandarli i vostri racconti, se ce li avete non fatevi sconfortare dal fatto che i primi 10 biglietti sono andati, perché noi comunque li mettiamo da parte come facciamo con tutti i racconti e prima o poi, quando serve, li tiriamo fuori. Voi siete qui, @radio24.it. Ha fatto così Fabrizio, che però che è in viaggio, in realtà vive fuori dall'Italia, vive tuttora fuori dall'Italia Fabrizio, sappiamo... Margherita, vive fuori dall'Italia Fabrizio, sì, vive in Venezuela, giusto? Vabbè, lo sentiamo dopo. Quindi non è in viaggio, ma il suo racconto però riguarda un episodio che gli è accaduto a Bucarest, in Romania, e che ha a che fare con il buon vicinato. Quindi oggi sul profilo Facebook abbiamo lanciato questa cosa del il peggior vicino della vostra vita. Come potete immaginare è arrivato qualsiasi tipo di messaggio. Davide che scrive: la coppia che vive sotto di me, 4 bambine che vengono possedute dal demonio. Paola: un tizio rimasto sotto di anfetamine, DJ notturno nella sua camera di musica di merda. Daniela: il mio peggior vicino di casa, quello che a 18 anni mi ha dato la prima delusione d'amore. Samantha: io vi dico solo una cosa, abito sotto al figlio di Satana, che non so cosa voglio dire, cioè non so se abiti dalle parti di Varese o di quella zona lì. Elisa: i peggiori vicini erano quelli che quando abitavo in appartamento mi avvelenavano i gatti. Claudia: io vivo accanto a Lady Godiva, abbiamo provato a parlarle gentilmente spiegandole che il nostro bimbo si sveglia impaurito dalle sue grida, nulla da fare, spero si sposi presto. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. La storia di Fabrizio riguarda, parla di vicini, parla di buon vicinato, ma non è in Italia, accadeva in Romania e accadeva più o meno 2 anni fa. Bucarest, domenica 6 giugno 2010. ore 10.43. Stamane, come spesso avviene, mi sono svegliato presto. Dopo aver pulito casa, ho preparato per diletto una pizza al gorgonzola. Ho una passione sfrenata per la cucina. Mi piace cucinare. Godo più io far mangiare bene il prossimo che il prossimo mangiare bene. Dopo aver pulito e sistemato casa, mi butto in doccia. E, ritenendo le 9.30 un orario in cui si può internazionalmente ascoltare musica ad alto volume, metto la radio a manetta. Tutto bene per 15-20 minuti. Poi inizio a sentire qualcosa. Mi sembra un disturbo alle casse, in realtà non sono le casse, è il campanello di casa. Premuto con rabbia insistente. Me ne rendo conto solo quando la porta di casa sta praticamente per essere buttata giù a spallate. Ero a Bucarest l'anno scorso con un'impresa italiana costruendo il finger dell'aeroporto di Otopeni di Bucarest, sempre come direttore amministrativo. Mi precipito fuori dalla doccia, apro e mi trovo davanti un signore sulla sessantina che in lingua inglese e molto educatamente si lamenta del volume della musica. Gli rispondo anch'io in inglese, gli dico che non era mia intenzione disturbare, che non mi ero reso conto. La moglie però mi urla contro da lontano, tacciandomi ironicamente di non essere rumeno. Il marito la zittisce con un gesto e la rimanda a casa. Poi, sempre con grande educazione, ribadisce che il volume della musica era un po' alto. Inizio a spiegarmi, però il mio inglese fa acqua da tutte le parti. Gli chiedo se parla francese. La risposta è affermativa. Quindi riesco a spiegargli meglio, mi scuso per l'accaduto e ci chiariamo. Alla fine se ne va, lasciandomi il tempo per finire di vestirmi. Il mio vicino, che abitava al piano superiore, appunto, poi ho saputo che era professore universitario e l'ho conosciuto molto bene, siamo diventati amici e siamo rimasti in contatto. Una persona di molta cultura, ma anche a Bucarest in generale le persone sono molto educate, colte e gentili, a dispetto di quello che si crede in Italia. Prima di uscire, con grande dispiacere, decido di sacrificare la pizza al gorgonzola per rimediare all'incidente. Vado al piano di sopra e suono. Mi apre la donna, che mi squadra subito malissimo. Farfuglio ancora una cosa in inglese, tipo «Sorry, madam, I am very sorry about the happened». Solo allora faccio apparire la meraviglia. Una pizza al gorgonzola fumante. Lei con occhi furbi mi guarda e mi dice «Very diplomat, where are you from?» «Molto diplomatico, da dove vieni?» Iniziamo a chiacchierare. Il marito mi sembra molto sollevato per il lieto epilogo e riesco a interpretare il suo pensiero in un attimo. Più o meno era così. Sai che palle avere dei vicini che tua moglie non sopporta? È una doppia condanna. The first one in was a bumblebee. Crawled in the window and he stared at me. With lips as thin as you, not smiling, not wide enough for a lie to hide in. The first I saw was a bumblebee. Never wrote a melody into chimes. Never sang one song true enough to call the birds back to the loft. You never moved, you never danced. Io ho un amico, Nico. Nico ha passato tutti gli anni dell'università a Bologna. E la storia di Fabrizio e della pizza mi ha fatto venire in mente un episodio simile. Insomma, in 5 anni di università Nico ha cambiato, se non sbaglio, 3 case e ha convissuto con un bel po' di persone. Se glielo chiedi oggi, Nico ti dice che l'esperienza bolognese in generale gli è piaciuta, però diciamo che adesso ha fatto una media. In realtà, mentre viveva quelle esperienze, ogni tanto non era proprio contentissimo, e me lo ricordo bene. C'è in particolare un episodio, è un episodio che io mi faccio raccontare ogni volta che lo incontro. Un po' perché lui lo racconta benissimo, e un po' perché ha veramente dell'incredibile. Allora, Nico era al 3° anno e viveva con 2 ragazze. Le aveva conosciute l'anno prima, quando queste 2 erano appena arrivate in città, una da Catania e l'altra da Domodossola. Erano 2 ragazze simpatiche, carine, educate. Esattamente il tipo di persone con cui vorresti condividere un appartamento. Solo che Bologna, mi diceva Nico, ha uno strano potere. Cambia le persone. Dopo solo 1 anno passato sotto le 2 torri, distanti da casa, dai genitori e da tutti quei freni inibitori che fino ad allora le avevano trattenute, queste 2 ragazze si erano trasformate. Erano diventate 2 super fricchettone. Parliamo di gonne a fiori come se piovessero, zoccoli aperti ai piedi d'estate come d'inverno, una grossa preoccupazione per la salvaguardia della foca monaca in Mozambico e un forte attaccamento alla situazione geopolitica dei Balcani. Tutto questo mescolato ad ascolti compulsivi di Manu Chao, Guccini e una passione insana per il teatro danza. Ah, e ovviamente un'attenzione verso la pulizia di casa tendente allo zero. Nico, che invece è una persona normalmente ordinata, era costretto a vivere in una specie di centro sociale. Io l'ho anche vista quella casa quando sono andato a trovarlo. E non esagero, piatti che rimanevano sporchi per giorni nel lavandino, turni delle pulizie del bagno o della sala che non venivano mai rispettati, cibo che spariva dal frigo e in generale sporco. Tanto sporco. Un giorno Nico torna a casa sua a Mantova e passa il weekend in famiglia. Si rilassa, ritrova quell'ordine con la pulizia materna che ormai non riconosceva più, e poi torna tutto triste a Bologna. Una volta entrato in casa, vede che c'è qualcosa di strano. In sala c'è qualcuno. Apre la porta già un po' scocciato, ma ancora Nico non sa. Perché non trova le due ragazze. Trova due sconosciuti totali attorno ai 40 anni. Due mai visti prima in vita sua, che sono nel salotto di casa sua e stanno guardando una sua videocassetta sul suo televisore. Nico non sa cosa fare, ovviamente, e chiede a quei due chi diavolo siano. Uno dei due, l'unico che parla, si presenta come Angelo Blu. È quasi bello, è troppo bello per essere vero. Angelo Blu. Vabbè, Angelo Blu spiega a Nico che lui e il suo amico erano appena arrivati a Bologna e non sapevano dove andare a dormire, per cui si erano fermati a suonare la chitarra seduti per terra sotto i portici, chi non lo fa d'altra parte. Poi caso vuole che da lì sono passate le due famose coinquiline, che ovviamente li avevano ospitati. Ah sì, adesso sono uscite, penso siano all'università, noi siamo rimasti qui, se non ti dispiace, fuori fa un po' freddo. Il bello però è questo, è che in quel momento surreale quello dei due che non parlava mai si è alzato e ha cominciato ad armeggiare in cucina. Mentre Nico parlava con Angelo Blu, questo strano tipo lo ha guardato e gli ha fatto una delle domande più belle della storia delle domande. Ha preso in mano una teglia, lo ha guardato e gli ha chiesto, e cito testualmente: scusa, ti spiace se ti piego questa teglia? No, perché vorrei fare una pizza, ma la teglia non ci entra nel forno. Nico è stato preso in contropiede, una domanda del genere non se l'aspettava, e in un momento di debolezza ha risposto: sì, piegala pure. Che la piegassero con la teglia, a quel punto chi se ne fregava. E allora Angelo Blu e il suo amico semimuto si sono messi a cucinare, hanno fatto una pizza e ne hanno offerto una fetta a Nico, che alla fine aveva fame e quindi l'ha mangiata insieme ai due sconosciuti. E alla fine, secondo me, l'arrabbiatura del momento gli deve essere passata, merito della pizza probabilmente. Ah, una volta finita la pizza, Nico è uscito, ha litigato con le due coinquiline e ha cambiato casa. Mi ha detto che non le ha più viste, perché insomma, una pizza può fare tanto, ma non proprio tutto. Oh, je te déteste quand tu fais ta peste, quand tu me testes, je pars immédiatement. Oh mon amour, franchement, je vais te dire, t'es bien pire qu'un fichu ouragan. Oh, je te déteste quand tu fais ta peste, quand tu me testes, je pars immédiatement. Oh mon amour, franchement, je vais te dire, t'es bien pire qu'un fichu ouragan. Oh, je te déteste quand tu fais ta peste, quand tu me testes, je pars immédiatement. Oh mon amour, franchement, je vais te dire, t'es bien pire qu'un fichu ouragan. Io apro sempre con questo modo stupido di dire è un mercoledì qualunque, e in due mi hanno scritto: caro Matteo, non è un mercoledì 8 febbraio qualunque, è il nostro 15° anniversario di matrimonio ed è l'80° compleanno di mia mamma. Ciao Luciano, auguri a tutte e due. Ciao Matteo, sono Fatmir, oggi per me non è un mercoledì qualunque, è il compleanno di mio figlio. Sembriamo la Panicucci, ti ricordi la Panicucci sabato mattina? Pompa un po'. Bravo Ludi. Non troppo, sennò siamo veramente Panicucci. E poi mi scrivono da dove mi ascoltano e sono i messaggi che non so per quale motivo leggerei per tutto il giorno. Ciao Matteo, ti ascolto mentre lavoro con il trattore. Maurizio, ti ascolto in cuffia mentre lavoro sulle macchine a controllo numerico. Ti ascolto in cuffia legando le viti in mezzo al vigneto. Ascolto in autostrada mentre vado al lavoro. Enrico, poliziotto, pendolare tra Trieste e Biella. Enrico, pendolare tra Trieste e Biella? Basta, l'ho detto abbastanza volte. Ti ascolto in ufficio in streaming e ti vorrei vicino per ascoltare di persona le tue storie. No, no, guarda Valentino, ti assicuro che è meglio così, è meglio lontano. Meglio non vedersi troppo in faccia. Non io con te, tu con me più che altro. Ognuno a casa sua, ognuno a distanza. A proposito di casa, la vicina più schizzata, la moglie del finanziere sotto... La moglie del finanziere sotto casa, che ci suonava la porta la notte e la mattina perché non chiudeva occhio per il ticchettio delle unghie del mio cane. 4 kg scarsi, volevo adottare una pantera, Fiorella. Ah, ho capito. Allora, il cane etichettava con le unghie. Ma 4 kg però bastano per fare. Cioè, i gatti pesano probabilmente meno di 4 kg e quel rumore lo fanno. Il mio peggior vicino è quello che sta sopra casa mia, che ha levato un acquario dopo 2 anni e non mi saluta più. No, ragazzi, però, cioè, spiegatemi questi messaggi. Cosa significa? Ha levato un acquario infernale e non mi saluta più. Io sono il peggior vicino. Ho l'udito così sensibile che sento ogni rumore, anche il cellulare dei vicini che squilla. All'inizio sbraitavo, ora mi controllo e sopporto. Più tardi, visto che sono arrivati dei messaggi veramente, cioè abbiamo fatto una specie di classifica veloce prima in redazione, e più tardi vi faccio sentire almeno i 3 peggiori vicini della storia. Non so se Fabrizio si considera uno di questi, però mi pare di capire che alla fine stava solo ascoltando la radio quella mattina. Pronto, Fabrizio? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, ma dove ti trovi adesso esattamente? Mica l'ho capito. Io lavoro in Venezuela, a Valencia, la seconda città del Venezuela, ma... però diciamo in vacanza vengo sempre a Roma, a Rignano, dove vivo, Rignano Flaminio. Quindi adesso sei a Roma? No, no, in Venezuela. Ah, in questo momento... Lavoro e vivo qui per lavoro, però ecco, 3-4 volte all'anno vengo a casa. Cioè, quindi noi stiamo chiamando il Venezuela adesso, a spese di Confindustria. Yes, senti, che ore sono quindi in Venezuela adesso? La prima domanda, stupida. Le 11 meno 5. E tu stai lavorando? Mattina. Ti stai preparando? Io sto lavorando, mi sono preso una pausa sabbatica per sentire l'inizio della trasmissione. Senti, quindi tu... Di solito non la sento la tua, a questo orario lavoro. Cioè, quindi mi stai dicendo che l'ascolti in podcast? O proprio non l'ascolto? Ah, no, detto così sembrava no, perché di solito io non ascolto il tuo programma, ascolto solo Cruciani. No, guarda, quando c'è il podcast riesco a tenere i contatti con l'Italia fantasticamente. Senti, cosa fai esattamente a Valencia? Quanti abitanti ha Valencia? Circa un paio di milioni. Ah, è grande. C'è una città grande. Che cosa fai lì? Stiamo facendo una tratta ferroviaria, siamo 3 imprese italiane in consorzio. Io sono direttore amministrativo del mio cantiere. E possiamo dire che azienda è o preferisci? Sono in pregiro la mia, Astaldi e Ghella di Roma. Ah, in pregiro, che è la roba più grande che c'è in Italia per questo tipo di... Sì, no? Più all'estero ormai che in Italia. Ah sì, nel senso che fate più che altro lavori all'estero? Stanno, diciamo, l'estero ha superato quasi l'Italia come importo di volume di affari. E da quanto sei lì e quanto ti fermi ancora? Io sono qui da un annetto, però ho avuto altri 3 anni prima, per un anno in Romania, e poi sono tornato qui con un'altra impresa, appunto con Impregiro. Quindi sono 4 anni di Venezuela. E com'è il Venezuela? Mi fermerò fino a fine lavori, credo 2015, 2018, dipende da come vanno, sai, è un lavoro grande, per cui il tempo è relativo, cioè ci sono sempre imprevisti, addendum. Senti, ma tu hai famiglia? Sì, ho mia moglie e 4 bambini piccoli. Ma e te li porti dietro? Certo, vivono qui con me. Ah, ok, quindi sono tutti lì. E vanno, e cosa fanno? Sì. Scuola, asilo? Tutti a scuola, il più piccolo c'ha 8 mesi, quindi nulla, e gli altri fanno la prima, la terza e la quinta, e la sesta qui, che sarebbe la prima media. E com'è che si finisce a lavorare, a fare un lavoro come il tuo, per un'azienda così grande? Ma io ho cominciato un po' per caso nel 93 e poi ho fatto il privato, poi ho fatto 6 anni di cooperazione e poi sono tornato al profit, così. Poi sai, quando cominci a lavorare all'estero, alla fine un po' le lingue, un po' l'abitudine a situazioni un po' stressanti, difficili, non c'è troppa gente che ha voglia di andare all'estero, alla fine ti specializzi e viene da solo. Mi dici, guarda, velocemente, perché ti terrei un po' di più, però tra un po' devo già lanciare la borsa, mi dici velocemente com'è la tua giornata, che cosa fai? La mia giornata lavorativa è un po' lunga, sono 10 ore al giorno, quindi mi sveglio, porto giù il cane, faccio colazione e vengo al lavoro, dove passo appunto visto il traffico che c'è qui, neanche torno a pranzo perché sarebbe una pazzia, e poi torno a casa durante il fine settimana, insomma. Che si fa nei weekend in Venezuela? Ma guarda, il Venezuela è un po' particolare, è molto pericoloso andare in giro, quindi devi muoverti con molta cautela, però c'è tutto, insomma, vai al cinema, giochi a tennis, gioco a calcetto con i colleghi, vado a portare il bambino a fare calcio, le cose che fa un padre di famiglia normalmente, vai al cinema. Senti, invece lì le costruzioni che stai facendo, la roba che fate, tutta roba legale ovviamente, cioè... Sono per il governo, sì, venezuelano. Già abbiamo fatto una metropolitana. No, immaginavo che fosse una roba seria, però intendevo, non fate nulla al di fuori delle regole, tutto, no? Ah no, guarda, ci stanno ormai la qualità e i controlli ambientali eccetera eccetera, abbiamo più personale in quel ramo che nel ramo della produzione. Senti, ma e poi devo lasciarti davvero, ma quindi quando ci ascolti in podcast, quando è che trovi il tempo? Lavori 10 ore al giorno, c'è la famiglia, porti a spasso il cane, quando trovi il tempo? No, io mi addormento sempre con Radio 24 e poi quando sto nel traffico. Lo prendiamo come un complimento questo. Col BlackBerry, sai il programma che ti fa certo. Tutte le radio, l'ascolto sempre. Senti Fabrizio, ti ringrazio molto per la chiacchiera, il racconto e facci grazie sapere. Grazie a voi e vi continuo ad ascoltare, un saluto a tutti. Che tempo c'è in Venezuela adesso? Quanti gradi ci sono? Adesso non vi vorrei far rosicare, però ci sono 25-30 di giorno e la sera una ventina. Viva gli italiani all'estero, grazie Fabrizio. Un abbraccio. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. Daniele da Ragusa, vivo di fronte alla signorina Rottenmeier, quella di Heidi, avevamo capito chi era. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Mi pare che ci sono stati un attimino di problemi. Un attimino. Mio cognato è un pochino lento, ma è tanto una brava persona. E io penso che dovreste fare un piccolo sforzo per venirvi un po' incontro, Ruggè? No, ma io, certo, per esempio, riconosco di aver sbagliato a dargli una pizza. Gli ha dato pure una pizza. Voi siete qui. Fabrizio, mi piace perché nella foto che ci ha mandato è decisamente in posa, è proprio davanti all'obiettivo. Ha una faccia italiana, direi. Fabrizio è completamente rasato perché probabilmente non ha molti capelli in testa, quindi la moda è quella. Ha gli occhiali, ha una camicia, alle sue spalle c'è una catena montuosa che non so come mai, ma si capisce che non è Italia. E ha su un gilerino di quelli da lavoro e da una parte ci sono cucite due bandiere, quella italiana e quella venezuelana, e c'è una scritta, non si vede benissimo, ma potrebbe essere una cosa tipo un convoglio o un convegno ferroviario italo-venezuelano. Magari andate sul sito, se riuscite a decifrarla voi questa scritta, dove teniamo le foto sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, c'è una mappa e trovate un pezzo del racconto di Fabrizio e la sua foto. Non capisco, un congresso, un... Vabbè, c'è una piccola piega che non la fa vedere. Ciao Matteo, anch'io ti ascolto da Hong Kong, sono 7 ore avanti. Ciao Aldo, dimmi cosa fai ad Hong Kong. Letizia da Piacenza, sto dipingendo icone e ti ascolto. E poi Katia da Ravenna, non so perché ma ti ascolto sempre mentre sto stirando. Ti ascolto dall'ufficio in streaming. E poi Enzo, ciao Matteo, sono un architetto, mentre ti ascolto disegno mobili, ma sono in un periodo di prova, spero mi tengano, ne ho proprio bisogno per costruire una famiglia, non ne posso più di vivere con i miei. Enzo, ti capisco, tieni duro, dai. Ti dico la verità, in questo messaggio che mi hai mandato, quello spero che mi tengano col punto esclamativo mi ha quasi fatto commuovere. Torniamo invece ai vicini, terribili. Eccolo qua, Marcello. Ciao Matteo, una volta il mio vicino di casa ha tagliato la siepe del giardino con la motosega alle 2 di notte. Però lì cosa gli vai a dire? Cioè, con la motosega in mano è un po' complicato. Una volta i miei vicini di casa, che in realtà non erano i miei vicini di casa ma erano vicini della casa in cui stavamo facendo una festa di cui Tiziano Bonini si ricorderà, ci mandarono i carabinieri alle 2 di notte che ci dissero: sapete che questa è una festa illegale, ma per quale motivo? Era a casa, era all'aperto, era estate, qui sapete che sopra un certo numero la festa diventa pubblica. E io gli chiesi: quale numero? E lui mi disse: 113. In che senso? Cioè, per chiamarci, mi disse, 113. No, sopra quale numero diventa pubblica? Dipende. Anche 5, mi disse. Però furono carini e non ci diedero 10.000 euro di multa, volevano darci perché si era fatto casino. E poi, Luca da Milano. Giocavo a tennis contro il muro della camera. La vicina di sotto saliva a lamentarsi, scandendo le parole con lo stesso ritmo della mia palla da tennis per quanto la stordivo. Allora smettevo con il tennis e cominciavo con il basket. Credo tutto in casa, tra l'altro. 349-238-6666. Ma visto che si parla dei peggiori vicini e sono arrivati una marea di messaggi sul profilo Facebook del programma, prima ci siamo messo lì, abbiamo stilato una classifica e questi sono i migliori tre. Alla posizione numero 3, Stefania. Mi sono spostata dalla città per andare in campagna. Cercavo il silenzio, spazi più aperti. Trovo una pseudo villettina, non grossa, ma c'è il giardino. Però i vicini sono terribili. Famiglia laziale. con tre figli e parenti di ogni ordine e grado, sempre fissi lì, estate e inverno. D'estate un tripudio di griglia a tutte le ore. D'inverno giocate a carte con tanto di picchiata sul tavolo a ogni giocata vinta, giorno e notte. Nessuno lavora. Si mormora abbiano una grossa gioielleria a Roma e che ci campano tutti. Sono un po' sconsolata ma speranzosa che possano cambiare o quantomeno invecchiare. Io non ho niente contro i laziali, ma loro non li sopporto. Alla posizione numero 2 del peggior vicino della vostra vita, Francesco. Io ho trovato la divina soluzione. La vicina sotto il mio appartamento rifiuta il fatto di essere abbastanza sorda e ha la TV sotto la mia camera da letto, a volume altissimo, fino all'una o alle due di notte. Essendo io turnista, questo è un problema. Un giorno però, cambiando il mio vecchio TV catodico, mi sono reso conto che dalla verandina della mia camera da letto riuscivo a cambiare il canale della sua televisione. Da allora la mando fuori di testa cambiandole i canali o abbassandole il volume ogni volta che mi dà fastidio. È diventata la giusta punizione per quando mi sveglia. È la posizione numero 1 del peggior vicino della vostra vita, Francesca. Il peggior vicino di casa, in realtà, è l'uomo affabile. Lo incontri in qualsiasi momento della giornata, perché tu sei di corsa e hai da fare e lui generalmente è un pensionato, in ottima salute, che si rompe l'anima a stare in casa e quindi ha deciso di mettere ordine nella vita del condominio. È un incubo. Con il suo sorriso aperto non ti molla per ore, nemmeno se ti sta andando a fuoco la casa. Finge di essere una persona alla mano. Ti chiama per nome, poi però ti corregge se lo chiami signor invece che dottor. Sembra disponibile e aperto, invece odia tutti e passa le giornate a controllare dalla finestra quello che fanno i condomini per coglierli in fallo. L'ho avuto alle costole per 8 anni e ora, finalmente, casa singola. Aldo da Hong Kong mi scrive nel mio ufficio macchine IND, progetto italiano ma made in China e sto da papa. E poi Diego da Como mi scrive: ciao, ti ascolto in cuffia mentre faccio analisi su anticoagulanti ed antitrombotici. Oggi titolo biologico. Grazie a Diego, grazie a Federico Bernocchi, a Fabio Cantadori, a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. La storia di oggi era la storia di Fabrizio e parlava di buon vicinato. Quella di domani è la storia di Maddalena e parla della bellezza degli eroi. Allora entro per prendermi un caffè e poi vado verso il bagno, che è una fermata obbligata per chi guida in autostrada. E la trovo là, seduta dietro a un tavolino. Era la guardiana dei bagni, quella che pulisce il disastro lasciato da centinaia di automobilisti. Sul tavolo, di fianco ai fiori che si è messa per diminuire lo squallore del posto, il piattino con piccole monetine per la mancia, quasi delle elemosine.